Mix 24 di Giovanni Minoli. La notte del 24 marzo del 76, un colpo di Stato in Argentina guidato dai tre generali Videla, Massera e Agosti depone il governo di Isabelita Perón e dà inizio a un regime militare. È la guerra sporca, una dittatura sanguinaria e violenta, un periodo di sistematica violazione dei diritti politici e umani. 30.000 persone, i desaparecidos, gli scomparsi appunto. Per la gran parte giovani oppositori del regime vengono torturati e poi eliminati in maniera brutale. A 40 anni dal golpe torniamo a quei giorni che sconvolsero l'America Latina. E quando si dice America Latina si dice Italo Moretti. Se Demetrio Volci c'è stato il volto e la voce della RAI dal mondo comunista, Italo Moretti è il giornalista che più di ogni altro ci ha fatto conoscere i grandi avvenimenti del centro e del Sud America. Dal golpe in Cile agli squadroni della morte in Salvador fino alla tragedia dei desaparecidos in Argentina. A Italo Moretti è dedicata questa puntata di Mix 24. Argentina, Cile, Uruguay, Nicaragua, Salvador. Si snoda lungo le dittature del Sud America e le complicate realtà centroamericane la lunga carriera di inviato di Italo Moretti. Un racconto cominciato sul finire degli anni 60 per il giornale radio e proseguito poi per il TG2 con un cineoperatore al fianco. In Sud America Moretti sbarca per la prima volta nel 1968, in Colombia, al seguito di Paolo VI. Ma è nel settembre del 73 che il suo destino si lega con quella realtà, quando Italo Moretti è uno dei primi giornalisti italiani a raggiungere Santiago del Cile, subito dopo il golpe di Pinochet. Arrivamo che era ancora buio, ricordo. E la prima cosa che mi colpì fu che la città era imbandierata. Venni subito a sapere che era imbandierata perché era la festa nazionale cilena. E poi l'impressione che ne colsi era di un paese piegato. Italo Moretti è un grande giornalista con la capacità di raccontare, di spiegare soprattutto. È un'enciclopedia. A una certa voce consulti Moretti e trovi quello che vuoi sapere. Erano le voci dello stesso Italo Moretti e di Paolo Garimberti. Per una breve stagione tra il 95 e il 96, Italo Moretti è stato anche il direttore del TG3. Moretti, infatti, lascia la RAI per dedicarsi al premio Ilaria Alpi, del quale è stato presidente. Ha lavorato con molti colleghi, tra questi il reporter Mimmo Candito. Quanto abbiamo avuto la capacità, noi tutti italiani, di sapere quanto accadeva in Argentina e in Cile attraverso l'impegno diretto, non soltanto il lavoro professionale, ma anche la partecipazione, l'empatia di Italo per la tragedia che si svolgeva con i desaparecidos in Argentina e con la violenza della dittatura di Pinochet in Cile. Da Buenos Aires, Italo Moretti. I militari argentini stanno per abbandonare la Casa Rosada, questo palazzo che in Argentina è il simbolo del potere, e si accingono quindi a restituire ai civili il governo del paese dopo una dittatura che è durata 7 anni e mezzo. Buenos Aires festeggia il primo anno dalla fine della dittatura militare, è il 1984. Profondo conoscitore della realtà sudamericana, Italo Moretti illustra il complicato cammino dell'Argentina del presidente Alfonsín sulla strada della democrazia, tra difficoltà economiche e la richiesta di giustizia. E lo fa in un appassionato documentario, Le due facce delle Ande, girato in quei mesi. Moretti descrive la svolta democratica di Raúl Alfonsín così. Di qua dalle Ande le cose cambiarono un anno fa. Eletto presidente della Repubblica e del governo dalla maggioranza assoluta degli argentini, Raúl Alfonsín si avvicinava alla Casa Rosada per l'ultimo atto del suo insediamento. La sconfitta subita nell'avventura delle isole Falkland Malvine aveva accelerato la fine della dittatura e il rientro dei generali nelle caserme. Dopo 7 anni di governi militari, il paese era a un passo dalla bancarotta, con un debito estero di 48 miliardi di dollari. L'inflazione avanzava a ritmi incredibili. I familiari di migliaia di desaparecidos chiedevano verità e giustizia. Un anno dopo la trionfale vittoria elettorale, l'uomo nuovo di questo paese, Raúl Alfonsín, è ancora più popolare. Il mese scorso, quasi il 78% dell'elettorato ha approvato con il sì il referendum voluto da Alfonsín per una ratifica dell'accordo raggiunto con il Cile in merito ad una delicata questione territoriale. Aquí está la presencia orgullosa de un pueblo que sabe que a través de su acción primero mira. Alfonsín è amato perché gli argentini hanno scoperto di aver trovato un leader che può ridare al paese la stabilità politica dopo mezzo secolo vissuto tra regimi militari e brevi parentesi di democrazia. Ma l'Argentina che il radicale Raúl Alfonsín ha ricevuto in consegna da una gerarchia militare, criminale e corrotta è un paese tuttora segnato da grandi tragedie economiche, sociali ed umane. Grandi tragedie economiche, sociali e umane, prima fra tutte quella dei desaparecidos. Migliaia di giovani scomparsi nel nulla e il massacro di un'intera generazione. Il primo anno della dittatura, 17 donne disperate chiedono di conoscere la sorte dei loro figli. La stampa di regime le chiama las locas, le pazze, e la polizia le disperde. Per anni non avranno risposta. Poi la Plaza de Mayo diventa il luogo di appuntamento per migliaia di madri che gridano giustizia. Un fazzoletto bianco con incisi migliaia di nomi diventa il simbolo di quella incessante protesta. Moretti e l'operatore Romolo Paradisi raccontano al pubblico italiano il coraggio delle madri argentine. Nell'aula magna della Facoltà di Medicina di Buenos Aires, la sera del 6 dicembre. È un omaggio ai 138 medici sequestrati e scomparsi insieme con un gran numero di studenti e infermieri. Su ogni sedia vuota c'è il nome di uno dei medici assassinati dai militari. Ma qui non si parla di morte. Il motto delle madri è ancora oggi lo stesso che veniva gridato nella Plaza de Mayo contro la dittatura. Vogliamo che ricompaiano vivi. La ragione da tempo non legittima più alcuna speranza. Le madri lo sanno, perché adesso si sa quasi tutto. Si conoscono in molti casi i nomi dei sequestratori e di chi torturava. I pochi sopravvissuti e i rari pentiti hanno anche indicato dove le vittime venivano nascoste e raccontato come si uccideva. C'era già la notizia dei desaparecidos, insomma, questi 30.000 ragazzi e ragazze che erano scomparsi, non c'erano più, ed erano tutti di una fascia d'età, dai 25 ai 30 più o meno. E io ero molto curioso di vedere, perché io avevo, come ho tuttora, la barba era nera, capelli lunghi, e magari potevo essere scambiato per uno di loro. E quindi scendemmo in strada dall'hotel con la cinepresa, andando in giro per fare, diciamo, inquadrature. Eravamo molto incuriositi perché, fra l'altro, ci vedevano in modo molto strano. Tanto era una troupe che girava abbastanza liberamente, non avevamo nessuno che ci venisse dietro per controllare. Però ovviamente c'erano mille occhi che ci guardavano. Questo sfilare triste e coraggioso di mamme di desaparecidos con il fazzoletto bianco a coprire la testa, sul quale fazzoletto era scritto il nome del figlio o della figlia e la data del rapimento. E questo accadeva ogni giovedì, era diventata una routine. Però soltanto qualche anno dopo, quando vennero alla luce queste organizzazioni umanitarie e la denuncia fu pubblica, potemmo testimoniare e denunciare le dimensioni di questa tragedia, che all'epoca veniva ignorata. Gli argentini valutarono i riflessi e le conseguenze del golpe di Santiago e decisero di fare l'opposto, cioè sarà un colpo di Stato non visibile. Qualche cosa si riusciva a sapere e a strappare, ma con molta, molta difficoltà. Dovettero passare dei mesi perché nascessero le associazioni delle madri di Piazza di Maggio. Morti, torture, stupri, un orrore che dura 6 anni. Una mattina andò a lavorare e non tornò più a casa. Michelangelo aveva 20 anni quando l'hanno sequestrato. La moglie è stata arrestata lo stesso giorno che è scomparso lui. Cominciai a cercarlo dappertutto, nei commissariati di polizia e in altri luoghi simili, a Buenos Aires e nella provincia di Buenos Aires, ma nessuno mi diede una risposta. È da 2 anni e un mese che mancano e non sappiamo né la sorte di mio figlio, né di mia nuora e né del nipotino che è nato in carcere. Come se questo non bastasse, è scomparsa anche mia figlia. Io non ho pensato mai che dovevo fare o che si poteva fare la denuncia all'ambasciata italiana o al consolato italiano. Ci dicevano che era meglio non fare niente, così ritrovavamo prima ai nostri figli sequestrati. Qualche volta è il caso a decidere la sorte dei sequestrati. Ascoltiamo la testimonianza di Wanda Fragale, un'italo-argentina che ha conosciuto l'orrore dell'ESMA, la famigerata scuola militare trasformata in un campo di concentramento e di tortura. Eravamo in un bar con un mio amico, il mio collega, stavamo discutendo del lavoro e abbiamo visto di fronte a una stazione ferroviaria una perquisizione delle forze congiunte. Io gli ho detto: perché non ce ne andiamo? E lui mi dice: hai paura della polizia? E io, invece di dire sì, ho paura della polizia, ho detto: no, io non ho paura della polizia. Siamo rimasti lì. Al poco tempo viene questa stessa pattuglia, viene al bar e ci prende a tutti i giovani, fra questi giovani a lui e a me, e ci portano alla scuola dell'Armada. Lì ho visto e ho sentito delle cose, ho visto delle montagne di persone. Dove noi eravamo era un posto, era un corridoio, c'erano due grandi celle, una da una parte e un'altra dell'altra, poi c'era un grande cortile e tante celle. Dopo il 24 di marzo quel cortile era una montagna di esseri umani, e lì io ho imparato a riconoscere i gridi della tortura e i gridi dei botte. I gridi della gente grida quando la sottopongono alla picana elettrica, una forma che non c'è spiegazione, no? E tu senti come che non è soltanto il fatto che uno pensa a questo lo uccidono, perché se ti uccidono sarebbe una salvezza. Per anni uno scellerato patto del silenzio copre i crimini di Vedela e dei suoi complici. Nel 78, quando già migliaia di giovani oppositori del regime sono scomparsi, i campionati del mondo di calcio portano in Argentina atleti e giornalisti provenienti da tutto il mondo. Nell'estadio monumentale di Buenos Aires, a pochi minuti dal carcere dell'ESMA, si gioca la finale tra i padroni di casa e l'Olanda. Un orgoglioso Jorge Videla consegna la Coppa della Vittoria alla squadra argentina, ma il mondo sceglie di non sapere. Solo nel settembre dell'84 il CONADEP, la Commissione Nazionale sulla Scomparsa delle Persone, rompe il silenzio e pubblica un dettagliatissimo rapporto sui numeri e le facce dei desaparecidos. Il libro più venduto in questi giorni nelle librerie di Buenos Aires in tutta l'Argentina ha per titolo Nunca Más, Mai Più, ed è il rapporto della commissione d'inchiesta nominata un anno fa dal governo Alfonsín, commissione d'inchiesta che ha avuto il compito di indagare sulla tragedia dei desaparecidos. La commissione era presieduta dallo scrittore Ernesto Sabato ed è sicuramente di Sabato il prologo di questo agghiacciante volume, nel quale, dopo aver raccontato come e dove avvenivano i sequestri, lo scrittore Ernesto Sabato afferma: le vittime dei sequestri venivano spinte in un antro, ed era come se sulla porta dell'ingresso di questa loro buia prigione fossero scolpite le stesse parole che Dante Alighieri lesse davanti alla porta dell'inferno: perdete ogni speranza voi che entrate. E fu così, aggiunge il prologo, fu così che in nome della sicurezza nazionale migliaia e migliaia di esseri umani, per lo più giovani e perfino adolescenti, formarono una categoria tetra e spettrale, la categoria dei desaparecidos. Una parola, triste privilegio argentino, questa parola desaparecidos, che oggi si scrive in castellano, cioè in spagnolo, nella stampa di tutto il mondo. Il rapporto della commissione d'inchiesta Nunca Más contiene i casi di 9.000 scomparsi. Ma siamo certi che il numero è più alto, scrivono i membri della commissione. Molte famiglie non denunciarono i sequestri per paura di rappresaglie, e molte altre tacciono ancora, è scritto su Nunca Más, perché temono che le forze del male possano un giorno risorgere. Le madri di Piazza di Maggio invece non si arrendono. Hanno stampato a dicembre il primo numero d'un loro mensile. Ed Ebe Bonafini, presidente dell'associazione, dichiara che se Alfonsín è al governo, le forze armate sono ancora al potere. è un paradosso amaro che nasconde una piccola parte di verità. Legati da un patto scellerato che li coinvolge tutti, i generali hanno finora impedito che fossero processati i mandanti e gli esecutori del genocidio consumato in Argentina. Un anno fa, quando prese il potere, il presidente Alfonsin affidò alla magistratura delle forze armate il compito di giudicare i membri delle giunte di governo, i Videla, i Viola, i Massera. Ma i giudici militari hanno prima indugiato e si sono alla fine rifiutati di aprire il processo. Adesso la competenza è passata alla magistratura ordinaria. Sono in prigione per i crimini dei desaparecidos i generali ed ammiragli delle prime tre giunte, con Videla in testa. È agli arresti il generale Galtieri, che sarà giudicato anche per la sconfitta delle Falkland. Sono in prigione due tra i più sadici ideatori dello sterminio, l'ex comandante della Polizia Federale, generale Camp, e l'ex direttore della Scuola Navale Meccanica, contrammiraglio Chamorro. Non è ancora il turno dei mille e mille esecutori. Giorni fa il giudice ha ordinato l'arresto del capitano Astiz, che uccise con un colpo di pistola una giovane svedese di 16 anni. Ma la Marina, alla quale appartiene il capitano, ha immediatamente riunito il suo stato maggiore, lanciando minacce alle istituzioni e al governo. Tra i militari c'è chi giustifica le atrocità della repressione e chi ancora oggi nega con spudoratezza. Contrammiraglio Maiorca, lei è il difensore del contrammiraglio Chamorro, che fu il comandante della Scuola Navale Meccanica. Ora, è noto che la Scuola Navale, durante la dittatura, era una delle tante carceri segrete, che nella Scuola Navale si torturava, che dalla Scuola Navale i desaparecidos partivano verso la morte. Ci sono prove, ci sono testimoni. Ebbene, le chiedo, il giorno del processo, come giustificherà quanto accadeva nella Scuola Navale della Marina, comandata dal contrammiraglio Chamorro? Claro. Lei riferisce informazioni che vengono da ambienti e da mezzi di comunicazione di parte. La Scuola Navale Meccanica fu uno dei centri usati dalla Marina per combattere la sovversione. Non fu l'unico luogo di detenzione e neppure un luogo di detenzioni illegali. Dalla Scuola Navale i detenuti transitavano. Nella Scuola Navale di Meccanica non si torturava, questo è certo, anche se è certo che la guerra contro la sovversione fu di una durezza unica. Lei nega che in questo paese sia stata praticata la tortura e che vi siano migliaia di persone scomparse? Sì, deve aver avuto tortura. Sì, la tortura deve esserci stata e ci sono anche i desaparecidos. Ma molti degli scomparsi sono attualmente in Europa, vivono in Italia, in Spagna. C'è chi è scomparso perché non voleva continuare la guerra. Ci sono guerriglieri che si sono cancellati le impronte dalle dita. Però non nego che vi siano alcuni desaparecidos e che si sia torturato. Ho letto Nunca Más, il rapporto della commissione d'inchiesta presieduta dallo scrittore Ernesto Sabato. Ma Sabato è un uomo indegno, pieno di rancori, che ha raccolto le denunce senza vagliarle. La commissione era formata o da gente di sinistra o da genitori di guerriglieri scomparsi, desaparecidos. Ma i militari argentini non devono rispondere solo della morte dei desaparecidos. Molti di loro vengono accusati di illeciti amministrativi, di essersi arricchiti a spese della pubblica amministrazione, in altre parole, di avere rubato. Il simbolo più evidente della corruzione che dilagò nel corso della dittatura è rappresentato da questa autostrada di Buenos Aires. La chiamano autopista cacciatore, dal nome dell'ex sindaco della capitale, un generale dell'aeronautica attualmente in prigione. Per costruirla fu spesa una somma quattro volte superiore a quella preventivata. Il magistrato che indaga sugli illeciti amministrativi compiuti dai militari parla anche di loschi affari con la loggia P2. L'ex presidente dell'ente petrolifero di Stato, il generale Suarez Mason, aveva ideato lo smercio di nafta adulterata con la complicità di tutti i ministri dell'economia del passato regime. Il generale Suarez Mason, iscritto alla P2, è latitante. Il magistrato possiede la copia di una lettera in cui il generale piduista indicava a Licio Gelli il nome della persona da nominare direttore del Banco Ambrosiano di Buenos Aires. Possibile che, avendo compiuto misfatti così gravi, mancando totalmente di appoggio popolare, possibile che le forze armate argentine meditino già una rivincita? Ecco il parere dell'ex presidente generale Lanusse, che ha un'esperienza personale di colpi di Stato, ma che si dichiara inopinatamente un golpista pentito. Generale Lanusse, come Presidente della Repubblica, lei capeggiò dal 71 al 73 un governo militare. Qualche anno prima, nel 1966, insieme con altri generali, lei rovesciò il governo presieduto dal radicale dottor Illia. Sono passati 18 anni. Lo farebbe di nuovo? La risposta è categorica. No, non lo è. La mia è una risposta categorica. No, non lo rifarei. Spero anzi che l'errore che commisi io non sia ripetuto da altri generali. Nel 1970 noi, comandanti in capo delle forze armate, decidemmo, per esempio, di destituire l'allora presidente della Repubblica, generale Onganía, perché eravamo ormai convinti del fatto che un governo basato sulla forza non risolve niente. Un governo che si basi sulla forza non è mai un governo forte. Qualche giorno fa un giornale argentino ha pubblicato un documento riservato, un documento di un settore dell'esercito che rappresenta una minaccia per le istituzioni democratiche. Secondo lei, generale, tra le forze armate argentine, oggi c'è una vocazione golpista? No, no, lo escludo. Le forze armate hanno subito le conseguenze delle esperienze fatte negli ultimi anni. Si sentono messe sotto accusa da parte del paese. Ci sono delle ragioni valide perché questo accada, ma c'è anche la vergogna che deriva dalla pessima conduzione della guerra delle Malvine. Il discredito? Certo, il discredito. Le forze armate sanno che quanti hanno comandato le più alte gerarchie del potere sono colpevoli anche di corruzione. Il prezzo pagato dai militari è stato alto, ma c'è del buono in tutto ciò. Si è capito che certe scelte non pagano. Corruzione, tragedia dei desaparecidos, inflazione alle stelle e la fotografia di un paese che ha un'unica speranza. Si chiama Raúl Alfonsín. I generali argentini hanno consegnato al presidente Alfonsín e alle istituzioni democratiche un paese in cui i poveri sono diventati ancora più poveri. Uno studio dell'Istituto Nazionale di Statistica afferma che 7 milioni e 700 mila persone, il 28% della intera popolazione, vivono in condizioni di povertà. Sono decaduti ceto medio e classe operaia. Lo stipendio di un alto dirigente dello Stato non supera le 600 mila lire e il salario medio di un operaio è di $180, meno di 350 mila lire italiane. Il 40% dei bambini argentini di età inferiore ai 2 anni vivono in abitazioni igienicamente carenti. Secondo il censimento del 1980, nelle case di 12 milioni di argentini manca l'acqua potabile. E poi la denutrizione e la fame, nell'Argentina della pampa umida, del bestiame, del grano. A marzo il presidente Alfonsín ha lanciato il cosiddetto Piano Alimentare Nazionale ed ha voluto che ogni famiglia povera ricevesse una volta al mese una cassa contenente 15 kg di viveri, latte in polvere, spaghetti, riso, olio, farina, carne in scatola, zucchero e fagioli. Ce la farà l'Argentina a consolidare la sua democrazia? Lo studioso Gino Germani, un italiano che analizzò acutamente gli ultimi 50 anni di storia argentina, usava l'immagine del pendolo per rilevare che il paese appariva condannato a un alternarsi di regimi militari e di governi eletti dal popolo. Adesso che il pendolo si è di nuovo fermato sui valori della democrazia e della libertà, e dopo una tragedia così grande, tocca soprattutto agli argentini, a tutti gli argentini, evitare che il pendolo si rimetta ad oscillare. E dallo sguardo sul mondo di Italo Moretti, adesso sentiamo dove ci porta Franco Schipani con la musica. Buongiorno Franco. Buongiorno Alessandra, vi porto nel magico mondo di una delle più grandi interpreti della musica classica e lirica mondiale. Maria Kalogeropoulos nasce a New York nel 1923, secondogenita di genitori emigrati dalla Grecia. Con il nome di Callas, Maria conquista il mondo grazie al talento e alla forte personalità. Ma al successo la Callas deve sacrificare molto, forse troppo, l'amore, la maternità. Una meteora che si spegne in un lussuoso appartamento di Parigi, una morte non annunciata e ancora avvolta nel mistero. Una storia di una diva, di una donna piena di passioni. E ce la racconta Giovanni Minoli. Restate con noi.